Dove vai? Quando le ali delle farfalle si spiegano assolate e sfrecciano nei cieli, dove vai? Quando il ruggito del leone fa sentire la sua voce e dentro di te hai voglia di luce. Lady, lady, lady, per vivere bisogna lottare, per amare bisogna amare, per nascere bisogna morire. Dove vai quando la notte estirpa le sue viscere e ti butta agli occhi tutte le sue ceneri? Dove vai quando l'aria diventa ossigeno ed hai bisogno di sentire il vento penetrare ogni tuo tempo? Lady, lady, lady, per vivere bisogna lottare, per amare bisogna amare, per nascere bisogna morire. Lady, lady, per vivere bisogna lottare, per amare bisogna amare, per nascere bisogna morire. Dove vai? Dove vai? Dimmi, dimmi. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dimmi, dimmi, dove vai? Lady, lady, lady, per vivere bisogna lottare, per amare bisogna amare, per nascere bisogna morire. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Quando le ali delle farfalle si spiegano assolate e sfrecciano nei cieli. Lady, lady, lady, per vivere bisogna lottare, per amare bisogna amare, per nascere bisogna morire. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, dimmi, dimmi, dove vai? Dove vai?